Radio Virus, e poi ce ne sono tante altre, ma per questo dobbiamo fare un ringraziamento a Autistici, che ci sta permettendo di usare la sua infrastruttura. Mi viene da dire, quindi, altre nuove infrastrutture sono possibili, e per questo un grande grazie, ma anche un continuate a farlo, Autistici, perché quale miglior momento di adesso per far capire alle persone come fare un ragionamento sulle tecnologie in uso più ecologico. Allora, prima di iniziare però volevo, come sempre facciamo, darvi due informazioni di servizio a nostro avviso necessarie. La prima è che per molte donne stare a casa non è un'indicazione rassicurante. Vi ricordiamo infatti che l'80% delle violenze avviene proprio tra le mura domestiche, e quindi segnaliamo il numero del CADMI 02 55 01 55 19, che fa parte della rete Dire Case Antiviolenza, italiane. La seconda informazione che ci teniamo a dare, anche questa ogni volta, è il canale Telegram delle compagne del progetto Obiezione Respinta, dove si segnalano gli ospedali che continuano a garantire l'interruzione volontaria di gravidanza. Il canale è t.me/aborto_, cioè quel trattino basso, emergenza COVID-19. Cura. Wow. Sono Tupac Shakura. Yeah. Troia muta. Se no vieni punta. Hey. Ape. Wow. Pape. Yeah. Ape. Pape. Sull'ape di papa. Sull'ape di papa. Yeah. Ratatatatata. Ratatatatata. Schè. Sull'ape di pace di tutto wa. Dall'ape di palancio frecce. Schiaccia ste merde. Fa culo la legge. Fa culo le guardie. Prendo e scappo con ape di pa. Ape di pa. Ta. Scappo sull'ape di pa. Sparo Rodriguez. Ape di pa. Scappo sull'ape di pa. Sparo Rodriguez. Sparo Rodriguez. Giro tondo, sull'ape di papà, ho girato il mondo. Giro tondo, sull'ape di papà, ho girato il mondo. Ehi! Sull'ape di papà. Di papà. Sull'ape di papà. Eccoci qua di nuovo. Le prossime informazioni, sempre di servizio, sono che non una di meno Milano ha ovviamente diversi social. Ci trovate come sempre cercando non una di meno punto o trattino Milano a seconda dei social, e soprattutto quello che vogliamo segnalarvi è di mandare le vostre storie di quarantena o di lavoro in quarantena o di odio o di amore alla mail nonunadimenomilano@gmail.com. Abbiamo un blog, nonunadimenomilanoblog.wordpress.com, e anche un canale Telegram di cui vi darò l'indirizzo fra poco. Allora, in questa puntata parleremo di lavoro di cura in quarantena da dentro il sistema sociosanitario pubblico. Lo faremo grazie a delle testimonianze che abbiamo raccolto in questi giorni. Sono testimonianze anonime, sono testimonianze scritte o audio, e che vi riproponiamo stasera. Anzitutto quindi voglio ringraziare tanto tutte le persone che hanno partecipato a questa prima puntata, mandando appunto questi racconti sul loro lavoro quotidiano negli ospedali, alla Croce Rossa o negli spazi, negli istituti sociosanitari. '80s, both me and my sister got given personal Walkmans, and it was a really big thing. I mean, for both of us, but it was especially a big thing for my sister. Okay. Ciao, sono un'operatrice sociosanitaria, lavoro in un CDD, in un centro diurno per disabili. In questo periodo ho lavorato dal 23 febbraio fino a venerdì scorso nel centro. Il 23 febbraio arrivano notizie, notifiche, messaggi dicendo che chiuderanno le scuole. Noi abbiamo aspettato fino all'ultimo per capire se il nostro servizio rimanesse aperto o chiuso, visto che noi abbiamo un medico e un'infermiera una volta alla settimana. A mezzanotte ci è arrivato il messaggio dicendo che noi eravamo aperti perché eravamo ritenuti servizi essenziali. E così lunedì, tra l'ansia e il panico, mi sono recata al lavoro immaginando, preoccupandomi di tutte le cose che potevano succedere al lavoro. Ho chiamato la mia responsabile e mi ha detto che mi sostenere monitorato tutti gli utenti e gli operatori, tenere le distanze e cercare di proteggersi al più possibile. Noi non abbiamo ricevuto mascherine la prima settimana, né divisa né niente. Ne avevamo delle divise che erano lì da anni e le abbiamo usate, quelle monouso. Mascherine lo stesso, poche, ma ne avevamo, quindi ne abbiamo usato. Gel disinfettante ne avevamo, ma so che altri centri non hanno queste cose, non hanno le mascherine, non avevano le mascherine, non avevano il gel, nemmeno la divisa monouso. Arrivare al centro ho distribuito queste cose e abbiamo iniziato a ricevere i ragazzi. Quando sono arrivati i ragazzi erano agitati. C'è stata una che ha cercato di strappare le maschere e le camici perché era preoccupata. Ha iniziato a chiedermi: ma sei malata? Ma cos'hai? Ma togliertelo. Non capiva e non sapevo come spiegarle che c'era questa cosa, che c'era questo virus che poteva essere aggredire lei, contaminare me. E quindi ho tenuto la mascherina, gli ho raccontato una specie di fiaba che... Ecco, appunto, stiamo ascoltando una delle prime testimonianze. Continuiamo. Ho raccontato una specie di fiaba, però lei non si tranquillizzava. Ha continuato a cercare di togliermi la maschera piangendo e poi continuò a urlare: moriremo tutti, moriranno tutti. Okay, io mi sono messa a ridere per tranquillizzarla, ho detto: ma cosa racconti, ma cosa dici, sciocchina? Ho riuscito a calmarla e abbiamo continuato così per tutta la settimana del 24 al 28 febbraio, con paura, con stress, con poco personale, perché ci sono stati quelli che si sono messi in malattia subito e noi quelli della cooperativa che abbiamo continuato perché siamo più giovani, perché siamo più spericolati, non lo so. Allora, di testimonianze come queste ne sentiremo un po' lungo il corso di questa trasmissione, ma volevo partire con un aneddoto, sì, che a mio avviso ci aiuta anche ad entrare nel flusso di questi racconti che abbiamo raccolto. Allora, si racconta tempo fa che uno studente chiese all'antropologa Margaret Mead quale fosse per lei il primo segno di civilizzazione apparso nella storia, nel tempo. probabilmente ci si sarebbe aspettato che lei dicesse, che ne so, le ceramiche di terracotta piuttosto che l'amo da pesca. E invece l'antropologa, cioè Med, rispose che dal suo punto di vista il primo segno culturale di civilizzazione nell'antichità fu un femore curato, cioè un femore che si era rotto e che successivamente era stato aggiustato ovviamente da qualcuno o qualcuno. Med disse infatti che se, diciamo, nel mondo animale, se sei un animale, se ci si rompe una gamba, di fatto si muore, no? Non si può più correre via dal pericolo o andare al fiume o cacciare e si diventa subito carne da preda perché, diciamo, che l'animale non sopravvive al tempo necessario per il femore di autocurarsi, di guarirsi da solo. Di conseguenza, sempre secondo lei, il femore curato era l'evidenza che qualcuno si era preso del tempo per stare con chi si era fatto male, si era preso quindi il tempo per salvarlo. Quindi, in sintesi, aiutare qualcuno nella difficoltà di una situazione, diciamo, di malattia è dove la civilizzazione nasce. And I love you, baby, I give my soul. You and I can't steal the feeling, I live it. You want you and you can't fuck it up, you know self-control. Weed it out and come get your girl, oh yeah, yeah. La prima settimana, domenica sera, mi arriva il messaggio delle infermiere salutandomi, dicendomi sono dovuta tornare a casa. Non sono malata, non ho niente, però ho dei problemi. E io che dicevo, vabbè, abbiamo l'infermiera, abbiamo la dottoressa una volta alla settimana, ma ne abbiamo. Mi sono sentita crollare. Lunedì ho iniziato con gli attacchi di ansia e di panico più forti al mattino e alla sera. Andavo al mattino sul tram, pensavo che ogni persona fosse un possibile trasmettitore di contagiarmi. E quindi alla sera tornavo, dicevo, ma Dio, mi sono contagiata, non respiro. Adesso chi si prenderà cura di me, di mia figlia? Come sarà mia figlia? E ho passato tutta quella settimana, la prima settimana di marzo, con l'ansia. E quindi al lavoro dovevo essere forte, perché io ora sono rimasta io con personale sanitario, quindi Allora ricordo e vi invito a mandarci una vostra storia dalla quarantena e inviarla alla mail nonunadimenomilano@gmail.com, di contattarci sui social, che sono tutti nonunadimenomilano-milano o punto milano. Il canale Telegram è t.me/, quello slash che mi dimentico sempre, non una di meno Milano, basta. Buongiorno, io lavoro a un reparto di medicina generale. Abbiamo lavorato fino 10 giorni fa, normale, come abbiamo lavorato sempre. Però dopo, con questo virus, coronavirus, il nostro reparto si è convertito in un reparto Covid. Abbiamo mandato tutti i pazienti che avevamo, che è guarito, l'abbiamo mandato a casa. Chi serve una specialità l'abbiamo mandato al reparto adatto per la sua malattia, che era per la medicina generale, l'abbiamo mandato a un reparto uguale al nostro, che era prima anche un reparto di medicina, però da 2 giorni fa anche quel reparto è diventato per coronavirus e un Covid protetto. E questo cambiamento è venuto così, che avevamo un ritmo di lavoro normale, con i nostri turni normali, con anche il vestimento normale, con la nostra divisa, ognuno ha il suo colore, ognuno ha la sua divisa e va bene così. Però adesso abbiamo trasformato il reparto. La sala di attesa che avevamo l'abbiamo tolta, abbiamo messo dentro come una sala per divise nostre, guanti, camici lunghi che sono quelli per entrare dai pazienti, maschere, calzare, guanti di tutti i tipi, da quello lungo che arriva fino al braccio a quello corto, cuffie sulla testa, occhiali di plastica per coprire gli occhi, mascherine, quelle chirurgiche monouso e anche le altre bianche che sono FP2. E per entrare al reparto ci vuole venire con un camice, no scusa, con una divisa di stoffa. Entri nel reparto, ma non tutto il reparto, a quella saletta dove si prende tutto monouso. Vai a una camera, ti cambi, metti monouso, ti calzi, tutto. Anche le scarpe, tu vieni con una scarpa e la mette giù e prende un'altra per entrare nel reparto. Quindi tutto si cambia, non come tu vieni, come tu entri nel reparto. Prima erano pochi pazienti, però mano a mano tutto il reparto è pieno. Adesso fino sono 44 letti, pieni tutto. Dentro ogni camera ci sono due pazienti. Con le porte chiuse, ogni camera la porta chiusa. E adesso per entrare dentro una camera ci vuole mettere la divisa monouso, sopra un camice lungo con le maniche con lunghi, si chiude di dietro come quelli di fare un intervento chirurgico, mette la cuffia sulla testa, le occhiali sugli occhi, la maschera bianca sulla la bocca e il naso, l'altra monouso per proteggere quella di fuori. Guanti, prima guanti lunghi fino al braccio, sopra c'è altri guanti, la seconda, secondo tipo di guanto che rimangono, e il terzo che cambi spesso. Ecco, vediamo anche questa testimonianza che veniva direttamente da il luogo di lavoro. Continuiamo a ascoltare. Tutto così, questo per entrare dentro una camera dei pazienti. Però se una persona, un infermiere, un medico entra, ci vuole altri fuori. Siamo due che entra e che rimane fuori per darlo quello che gli serve, perché chi entra non può uscire e andare in giro nel reparto, sennò contamina tutto. E facciamo così. Però guarda, adesso i turni sono cambiati, cambiano spesso, perché ci sono colleghi che sono in malattia o che sono infetti o che sono state in contatto con i malati. Questo significa che noi saltiamo i nostri riposi, facciamo i doppi turni. Siamo lì a combattere un virus tremendo che non va via e non sappiamo quando sarà il nostro turno di prendere il virus e stare anche noi dentro sul letto, dentro una camera chiusa. I pazienti non sono tutti, diciamo, anziani, no. Ci sono quelli che hanno una cinquantina, 40, 30 anche. Vabbè, quelli resistono di più, che almeno non è che siamo lì a entrare spesso da loro dentro le camere. Però ci sono anche pazienti anziani che non ce la fanno. Ci sono anche quelli che non riescono a capire la situazione, che cominciano a urlare, cominciano a chiedere delle cose, che ti fanno entrare dentro una camera per chiederti una cosa banale. E questo significa per noi, ogni volta che entri dentro una camera, è una probabilità che prendi l'infezione. E vabbè, siamo lì a cercare di soddisfare e di fare un po' di tutto, però dico solo un po' di tutto, perché non possiamo fare tutto, è troppo difficile a fare tutto con questa situazione. I colleghi sono stanchi, le maschere ci lasciano sempre le macchie sulla la faccia. Abbiamo tutto adesso, le nostre facce, la pelle della faccia è tutta irritata, rossata, tagliata, non lo so, tutto, di tutto ti viene sulla faccia. E la faccia è la cosa che è più importante, però vabbè, noi supportiamo tutto fino a un certo momento che siamo in piedi. Ecco, allora anche questa testimonianza ci porta, diciamo, con la testa quantomeno a situazioni complesse, sicuramente difficili, che bisogna dire sono causate anche dalla privatizzazione del settore pubblico negli ultimi decenni, in particolare in Lombardia, ovvero dove ci troviamo. Però, come avevo previsto in entrata, c'è un piccolo problemino tecnico che mi obbliga a sconnettere per 10 secondi il tutto e riconnettermi per continuare la puntata. Quindi state online, ricaricate la pagina e ci sentiamo fra 10 secondi. Like all cookies off of me, I'ma get it, got it. No matter, big up my hungry belly. Tied to my heart, you can't break what now belongs to me. You try, you die, I dare you try. Finest keepers, I take them as I like. Got it with your life. Finest keepers, I take them as I like. Got it with your life. Finest keepers, I. Finest keepers, I. Finest, fine, finest keepers, I. E anche siamo dentro un reparto che non è adatto a questo tipo di malattie, diciamo, è un reparto normale che tu hai paziente dentro una camera, chiusa la porta, ti chiamano, tu apri la porta, l'aria, tutta l'aria dentro della camera ti viene in faccia e hanno detto che il virus va anche in aria, significa che ti viene il colpo di vento sopra la faccia, tutta, non la faccia, tutta, su te tutta. E questo è pericoloso. Stiamo vivendo nella paura, nella incertezza che prendiamo anche noi il virus e non so che rimane l'ultimo. Non siamo sicuri che non l'abbiamo già preso. Questa è una paura che ci fa uccidere. Ogni giorno tu sogni che sei dentro, anche tu chiuso. Eccoci qua di nuovo. Allora, spero che mi sentiate. Allora, dicevamo, questa testimonianza, un'altra che ci porta appunto a situazioni complesse, ma volevo fare uno zoom out per capire un attimo cos'è questo fenomeno di cui si parla ormai da anni e che viene definito come la crisi globale della cura. Facciamolo attraverso un po' di dati, cioè diamo un po' i numeri. Provate a stare dietro, so che avete un'irrefrenabile voglia di uscire, però insomma prendiamo questi numeri da il report di Oxfam uscito nel 2019 e dall'International Labour Organization. Perché i numeri? Perché a mio avviso sono capaci di rendere visibile l'invisibile. Allora, iniziamo dal primo dato. Il primo dato ci dice che il valore monetario globale del lavoro di cura non retribuito che fanno le donne a partire dai 15 anni d'età in su è di almeno 10,8 trilioni di dollari all'anno. Per avere un'idea, tre volte le dimensioni, diciamo, dell'industria tecnologica mondiale. Secondo dato, le stime basate sull'uso del tempo in 64 paesi, che più o meno rappresentano il 66,9% della popolazione in età lavorativa, mostrano che ogni giorno vengono trascorsi 16,4 miliardi di ore in lavori di cura non retribuiti. Questo equivale a 2 miliardi di persone che lavorano 8 ore al giorno senza retribuzione. Quindi, se questi servizi fossero valutati sulla base di un salario minimo orario, diciamo, sarebbero pari al 9% del PIL globale, che corrisponde appunto a quel circa 11 trilioni di dollari di cui sopra. La grande maggioranza del lavoro di cura non retribuito consiste, come sappiamo, in molte nei lavori domestici, circa l'81,8%. Un altro dato interessante che vale la pena di raccontare è che se tassassimo di un ulteriore 0,5% la ricchezza dell'1% dei più ricchi del mondo nei prossimi 10 anni, questo equivarrebbe ad avere investimenti necessari per creare 117 milioni di posti di lavoro nell'istruzione, nella sanità, nella cura degli anziani e in altri settori, diciamo, di questa area che viene definita riproduzione sociale. Teniamo conto che nel 2015 ci sono stati 2,1 miliardi di persone bisognose di cura. Allora, prima di passare ai successivi dati, devo purtroppo, scusatemi, ma devo fare uno stacchetto pubblicitario perché, come ogni radio, anche noi abbiamo bisogno di fondi per sopravvivere e abbiamo provato a fare una colletta, però pare che di questi tempi, diciamo, non funziona, no? E quindi anche noi ci siamo dovute vendere alla industria della pubblicità. Torniamo subito. Tra il decongestionante con acido ialuronico che libera il naso grazie all'acqua di mare delle Cinque Terre. Sì, per prova con adulti e l'acqua di bambini, mare. idrata e protegge le mucose. Accia! Sei nervosa? Hai il ciclo. Hai la lacrima facile? Hai il ciclo. Hai voglia di cioccolato? Hai il ciclo. O forse no? Eh no, sono in quarantena. Ma papà, dove stiamo andando? Living alone. Dobbiamo andare al sud! Ma I think of all come al the friends I've sud? È tempo di known. partire! Ma io ho When tutti gli amici I dial qui! the Ho tutto qui! telephone, Ti porterò dai nonni! Ti porterò in un nobody's luogo home. sicuro! Il paese entra in quarantena. Ecco, scusate, riprendiamo con i numeri. Ripeto, sono numeri presi dall'ultimo report di Oxfam uscito l'anno scorso e dal International Labour Organization. Allora, le donne svolgono il 76,2% del totale del lavoro di cura non retribuito ovvero 3,2 volte più tempo degli uomini. Non l'avremmo mai detto. In nessun paese al mondo uomini e donne forniscono una quota uguale del lavoro di cura non retribuito. Le donne dedicano in media 3,2, come si diceva, volte più tempo degli uomini, ovvero 4 ore e 25 minuti al giorno contro 1 ora e 23 per gli uomini. Nel corso di un anno questo rappresenta un totale di 201 giorni lavorativi sulla base delle 8 ore per le donne e 63 giorni sempre lavorativi per gli uomini. Il contributo degli uomini al lavoro di cura però è aumentato in alcuni paesi negli ultimi 20 anni. Facciamo una stima. Allora, si è calcolato che tra il 97 e il 2012 il divario del tempo trascorso in lavoro di cura non retribuito è diminuito di ben 7 minuti, cioè gli uomini lavorano da 1 ora e 49 minuti a 1 ora e 42 minuti nei 23 paesi in cui è stato possibile avere e spacchettare questi dati temporali. Quindi con questo ritmo ci vorranno ben 210 anni, cioè forse nel 2228 potremo colmare il divario nel lavoro di cura. Direi che forse potremo anche accelerare. L'ultimo dato di stasera è che lo scenario del prossimo futuro, cioè entro il 2030, bisognerà raddoppiare i livelli di investimento in istruzione, sanità e assistenza sociale. Ecco, con questo ultimo dato, diciamo, cioè ovvero con la necessità di raddoppio degli investimenti in tutto il settore che va appunto dall'istruzione all'assistenza sociale e sanitaria, secondo me questo è l'ultimo, questo dato dobbiamo in qualche modo tenerlo a mente quando usciremo da questo momento di eccezione, no? Cioè ricordarsi che la riproduzione è un lavoro e che come tale va sostenuta e retribuita e che non dovrebbe mai essere, diciamo, investita da processi di privatizzazione. Continuiamo, direi, con la prossima testimonianza. E dico anche, col passar di tempo, siamo solo 10 giorni che abbiamo iniziato, abbiamo già esaurito tutta la scorta delle divise monouso, tutta, in una settimana. Tutto il materiale sta finendo. Adesso, come sto parlando, abbiamo messo le divise di stoffa. Diciamo sono di stoffa, però sono monouso. Tu la, per esempio, la metti un turno e quando tu esci la cambi per mettere un'altra divisa. Però questo non è giusto, perché l'altra monouso, quella adatta, almeno plastificata, se ti viene un po' di acqua, qualcosa del paziente, non è che ti tocca sulla pelle. Invece questa di stoffa, se succede questo, ti viene direttamente sulla pelle, anche se sei sopravvestita con i camici lunghi, però vabbè, ci vuole più protezione. Però e non abbiamo quelle divise dalla testa fino a giù, abbiamo solo la divisa, maniche corte, pantaloni. Mettiamo occhiali di plastica, quelle grosse, mascherini sulla faccia e la cuffia sulla testa, però rimangono pezzi scoperti, lo so, anche se si copre tutto non riesci. We'll be right back. gezedir diye ihtiyaç. Ama oğlanın inadı dırgan adını gene açan. Balacak izleyecek oğlanı her haçan. Kız açıp gözünü enene via elede. Bibiler ve halalar onu büyüdü berede. Kaş almak olmaz kovun konşu bakır. Oğlan harada tapar halal kızı ahı. Min itiraf var deniz kırağında bak milyoner atraf var balayında Dubai kışa uçuş Paris'e otelin yaşası giyim keçim halisi Gucci ve Armani Dolce Gabbana 5 otaklı menzil hep kallı tavanı tullanıp sevinçlerle kız olur razı oğlan basar gazı kız azaldır nazı toyuldu yıldı kohumlar tanışlar atıldı şavaşlar sağırlar alkışlar kız ıştı ağızlar unutuldu bey gelin meclise aşk gelir. Amenin boynuna inandım oyununa sarıldım boynuna işkleyip canıma ganiyem kanımla könenim kanım ama gözyaşlarım yutsun saçlarım kurutsun ellerimden tutsun nedeni unutsun dertine bir vursun sen emeksin sanma aldanıp derine gelmişken evine seline seline çevirdim yerini Kuşalım gönlünü bağladım ömrümü ben Ya işte aşağı da ya sen aşağı sen Ya işte aşağı da ya sen aşağı sen Ya işte aşağı da ya sen aşağı sen Aşkın ne aşağı sen olamazsın aşağı sen Ya işte aşağı da ya sen aşağı sen Ya işte aşağı da ya sen aşağı sen Ya işte aşağı da ya sen aşağı sen Allora, come stai? Stanco, perché comunque, e non smetterò mai di dirlo, questa emergenza si quando c'è un'epidemia del genere, o hai il vaccino, o hai i farmaci, o eviti il contatto sociale. I primi due non li abbiamo, noi dobbiamo solo passare al terzo. Dato che il terzo, ahimè, dicono chiudi tutto, chiudiamo tutto, ma invece che chiudere lo stretto e arrivare ad avere lo stretto necessario della sopravvivenza, che io capisco possono essere possono essere i supermercati, le farmacie, i benzinai per il self service per dare la benzina, cioè ci sono il tabaccaio potrebbe essere solo l'H24 e non il tabaccaio aperto, così la gente va dentro. Insomma, il problema è che sarebbero bastate due settimane iniziali che si potevano vedere come settimane di vacanza per tutti a casa, e invece così le settimane diventeranno magari 5 mesi e il problema economico si protrarrà per anni. Ovviamente ci smeneranno i precari, perché penso che i padroni un po' di culo parato ce l'avranno e la faranno pagare a tutti gli altri, e fondamentalmente è uno dei problemi della critica economica che si può fare al capitalismo rispetto alla Cina, dove la chiusura di 2 settimane forse gli aiuterà a essere ancora più una potenza economica. E ho paura, ma la paura ti salva, però sono preparato, il mio lavoro, e non so te che lavoro fai, però insomma, se una persona fa il proprio lavoro può avere la paura, può essere attenzione, però io non ho paura. Non so come spiegarmi. Mi incacchio il fatto che magari tra un Covid e l'altro vada a prendere una persona che si sdraia in moto perché sta andando a fare un giro, no? E non per utilità necessaria. Quindi L'input è che stare a casa aiuta anche a aiutare noi a avere meno servizi e gestirli in modo più tutelante, anche senza fretta. I miei colleghi sono persone meravigliose, sono miei amici fondamentalmente, perché lavoriamo insieme da 20 anni, gente passami il termine, uomini e donne con palle ovaie, ecco, anche se io ultimamente l'ultima donna l'ho persa 3 anni fa, adesso siamo soltanto uomini nel mio gruppo, e è passata a fare dei lavori di ufficio dopo una gravidanza, purtroppo, beata lei, ecco, ha deciso di passare a un lavoro un po' più soft. Penso che dovrebbe essere, e nell'augurio che il mio lavoro diventi, il lavoro del soccorritore diventi una professione riconosciuta, che oggi non è, diventi anche la possibilità per noi a una certa età, perché credimi che fare il mio lavoro, io ho 43 anni, è un discorso, farla 55-60, insomma, portare giù persone di 120 kg per le scale in tre, non è un lavoro che insomma, Piero, non è un lavoro che nel fisico si può fare per sempre. E sono persone particolari, persone che lo fanno senza un grande profilo economico, perché guadagniamo veramente poco, e ti fa vedere la vita diversa, perché adesso, a parte la SARS, a parte questo momento del Covid, a parte essere un po', adesso arriviamo a casa delle persone, le persone ci applaudono dal balcone, ci aprono le porte, ci danno gli auguri. Un mese fa posteggiavi l'ambulanza in doppia fila, ti mandavano a fanculo, e queste cose sono difficili da dimenticare. Quindi spero che la popolazione però capisca che noi c'eravamo ieri, ci siamo stati oggi, e spero che ci saremo domani, anche se tanti di noi si ammaleranno, perché purtroppo, a differenza di, e torniamo un po' al punto iniziale, di me e i miei colleghi, che siamo tutelati perché dipendenti dello Stato, chi è nelle associazioni delle volte ha male informazioni, male formazione, e escono con mascherine per tanto tempo, sono contagiati e contagianti. Spero che, finito tutto, e magari vi chiederemo anche questa mano un giorno, ci aiuterete a spiegare come magari è adesso il sistema di emergenza e urgenza, e come secondo noi dovrebbe essere un giorno, in un modello puro statale, perché purtroppo un'altra cosa che penso che sia chiara è che nel momento dell'emergenza e bisogno come adesso, solo una sanità pubblica può essere forte e in sostegno. Quindi, come vedi, gli ospedali privati sono mezzi latitanti, e sarebbe giusto quando vengono dati i soldi che vengono dati proprio a questi ospedali, e idem, penso che condividerete tutte, idem con la scuola, no? Sì, condividiamo tutte, direi, o perlomeno penso proprio di sì. Allora, bellissima questa testimonianza di un soccorritore, che ci ricorda che la paura può essere attenzione, ma ci ricorda anche che, appunto, le privatizzazioni, il neoliberismo ha certo sì smantellato il welfare state, ma anche in un certo senso riproposto, no? Ha riproposto dei modelli di assistenza sanitaria, di sostegno al reddito, di edilizia abitativa o di istruzione, appunto, no? Su questo, per esempio, non ha di meno, ha più volte sottolineato la pericolosità di un welfare aziendale, per esempio. E ci sembra, appunto, che questa mutazione, questa riproposizione stia un po' reintroducendo delle leggi per poveri dal sapore un po' colonialista, no? Dove da una parte ci sono i cittadini e dall'altra parte ci sono i non cittadini. Questo vuol dire anche rimettere al centro la famiglia e, di conseguenza, come abbiamo visto prima, le donne, come unico soggetto, diciamo, di cura per le persone a carico. Anche che in questo contesto di negligenza istituzionalizzata c'è un'ondata crescente di mobilitazioni intorno alla cura e questa può essere testimoniata da tantissimi esempi degli ultimi anni. Per primo gli scioperi dal lavoro riproduttivo messi in campo, no? Da non una di meno dal 2015 in avanti, come anche tante altre pratiche, per esempio la campagna di Docs Not Cops nel Regno Unito, che si rifiuta di controllare i documenti ai pazienti migranti, come anche le barche nel Mediterraneo che salvano le persone e che sfidano la criminalizzazione delle ONG, come anche per esempio la crescente resistenza alla speculazione edilizia attraverso la riappropriazione delle case lasciate vuote dagli speculatori stessi, no? Come l'esempio di La Pa in Spagna. Ve la leggo perché è arrivata scritta. Allora, attualmente nel mio ospedale ci sono 3 reparti Covid per un totale di circa 60 posti letto e siamo passati a ospedale Covid più. Significa per noi che l'intero ospedale lavorerà solamente con persone contagiate e tutti gli altri che hanno patologie diverse saranno portati in altri ospedali non Covid. Tutta l'organizzazione è stata rivista, anche i turni. Alcuni di noi hanno fatto doppi turni, hanno deciso di non tornare a casa dai familiari e si sono isolati, perché è chiaro che ogni tipo di professionalità all'interno dell'ospedale che lavora attualmente è comunque esposta al rischio e quindi è un veicolo per la propria famiglia. È una situazione complicata, uno perché si combatte contro qualcosa che non si conosce, due perché i dispositivi sono pochi, tipo camici, mascherine, coprischarpe, visiere, occhiali e anche respiratori sono molto molto pochi. In questo senso abbiamo creato un conto corrente mutualistico per acquistare questi dispositivi all'interno del nostro ospedale. Le farmacie del posto ci hanno aiutato, ma questi sono i dettagli tecnici. Invece come sto personalmente. Siamo provate. Basti pensare alle persone anziane che sono chiuse in stanze, che non possono ricevere visite dai familiari per paura di contagiare anche loro. E noi, vestiti come marziane, siamo il loro unico contatto. Facciamo il letto, diamo le terapie e li aiutiamo a mangiare. Da estranei diventiamo come una grande famiglia. Ci facciamo forza tra di noi. A volte anche le lacrime, ma non smettiamo di lottare. Siamo sempre esposte al rischio, ma lì rimaniamo e lì stiamo. Però siamo oggi lì, ma con lo stesso impegno che ci mettiamo sempre, ogni giorno e ogni turno dell'anno, non solo adesso. Ora ci è chiesto di più, certo, ma noi ci siamo sempre state. Giorni abbiamo visto, abbiamo letto più che altro diversi comunicati del sindacato medici ospedalieri, che stanno un po' lavorando a partire dalle testimonianze dirette di ogni singolo presidio ospedaliero per denunciare di fatto dispositivi e protocolli o materiali di sicurezza carenti, no? Però devo dire, forse anche una ispirazione che ha portato in qualche modo alla puntata di oggi è un comunicato che vi leggerò e che in qualche modo rivendica il fatto che non sono solo i medici e gli infermieri in prima linea, ma ci sono anche tutte le addette alla pulizia, quelle che ogni giorno si alzano per svolgere il loro lavoro e far trovare ai pazienti e al personale sanitario i reparti puliti e in ordine. Allora vi cito un pezzo della loro lettera che secondo me è molto bella, che dice: siamo le lavoratrici invisibili, siamo quelle che si alzano alle 5 del mattino ma nessuno ci vede, lasciamo solo il nostro passaggio di pulizia, spesso scontato, come se non fosse così importante, ma anche noi ci siamo. Anche noi, operatrici addette al servizio di pulizia ospedaliero in questo periodo, facciamo di tutto per rendere il nostro presidio più sicuro possibile. Noi ci siamo, nonostante nessuno ne parli, nonostante le paure, nonostante i rischi in cui anche noi e le nostre famiglie potrebbero incorrere. Ci siamo e lavoriamo anche se abbiamo un contratto collettivo scaduto da anni, con stipendi ridicoli. Sì, noi lavoriamo incessantemente come gli altri, per noi e per tutta la comunità. Milano è in partenza dal binario 3 del Palermo. Socialize around, meet the wrong guy, room say hi, say why, socialize around, meet the wrong guy, room say hi, say why, mango, malala, malala, malala, lama, elama, ela, lai mala, get into the fire, to the fire, to the fire, get into the fire. Prima di chiudere però volevo prendere alcuni punti scritti da Valeria Graziano per pensare la cura come una nozione politica, anche a partire, no, da le chiamate, gli appelli che abbiamo appena letto, no? Allora il punto 1 dice: il lavoro di riproduzione può disobbedire al potere, aumentando la nostra libertà, le nostre libertà collettive. Ecco perché, quando organizzato in modo capitalistico, patriarcale e razzista, non funziona per la maggior parte degli esseri viventi. Il punto 2 dice: la cura è lavoro, è azione necessaria ed è lavoro specializzato. Il punto 3 dice: il lavoro di cura si suddivide ingiustamente in modo violento nella maggior parte delle società, in base alla linea del genere, della razza e della classe. Alcuni sono costretti a curare, altri difendono il loro privilegio di farsi curare, e questo deve cambiare. Il quarto e ultimo punto dice: i lavori di cura hanno bisogno del pieno accesso a risorse, conoscenze, strumenti e tecnologie. Quando questi vengono portati via, dobbiamo rivendicarli. Allora io vorrei salutarvi, ricordandovi ovviamente che ci vedremo, ci sentiremo, non ci toccheremo, ma insomma in qualche modo sublimeremo ogni lunedì, mercoledì e venerdì su Radio Lotto tutto l'anno, dalle 7 di sera in avanti. E volevo ricordare di mandare le vostre testimonianze alla mail di Non Una Di Meno, che è nonunadimenomilano@gmail.com, di seguirci sul blog, che è nonunadimenomilanoblog.wordpress.com, e anche sul canale Telegram, che è t.me/nonunadimenomilano. Se ha detectado una amenaza. Cuídate que anda por ahí coronavirus. Cuídate que anda por ahí coronavirus. Cuídate que anda por ahí coronavirus. Cuídate que anda por ahí coronavirus. Corona, corona, corona, corona, corona, corona, coronavirus. Corona, corona, corona, corona, corona, corona, coronavirus. Enfermero, enfermera, tráeme la mascarilla. La trasmissione comunque va avanti con una selezione musicale a cura mia e di Ubi, e anche con le storie dalla quarantena che abbiamo raccolto in questi giorni. Alla prossima. Ese bling bling. Cuídate que anda por ahí coronavirus. Cuídate que anda por ahí coronavirus. Cuídate que anda por ahí coronavirus. Cuídate que anda por ahí coronavirus. Corona, corona, corona, corona, corona, corona. Coronavirus. Corona, corona, corona, corona, corona, corona. Coronavirus. Y chúpate en mi baja, y chúpate en mi baja, y chúpate en mi baja. Chúpate en mi baja, y chúpate en mi baja, y chúpate en mi baja. Cuídate que anda por ahí y no son los monos. Yo franja el 911 con los cuchillos preparados a comer tiburón blanco. Yo no sé de pastilla más de ahí. Hey, ¿qué es lo que está pasando? No hay que hablar con nadie, Fraga produciendo. Cuídate. Se ha detectado una amenaza. Una storia assassina. Storie virali della buonanotte. Ci stavamo ammalando tutte, questa era la verità. Ammazzate di lavoro e contagiate da un virus che ci stava colpendo una a una mentre pulivamo gli ospedali, gli uffici, le scuole, il mondo intero, insomma, senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo invisibili, eravamo le donne e gli uomini delle pulizie, quelli che scivolano nei corridoi senza fare troppo rumore. All'epoca il superpotere che avevamo non andava di moda, l'invisibilità era una cosa da sfigate e basta. E come tutti gli sfigati, un giorno uno, un giorno l'altra, ci rincuoravamo con piccoli gesti di insubordinazione simbolica, roba da poco, come far cadere un piatto della collezione della signora o abbassare la centralina elettrica di un piano di un edificio. Poi, da quando gli ascensori erano automatici, neanche più potevamo lasciare le porte aperte al 16° piano. Questa cosa del virus però ci stava veramente uccidendo. Eravamo in testa alle percentuali delle categorie lavorative più infette, ci stavano dimezzando. E allora come succedono le cose senza troppo preavviso? Cominciamo a scambiarci dei bigliettini tra un turno e l'altro, tra un incrocio di strada e quello successivo. Prima erano messaggi d'affetto, solidarietà, ci scrivevamo parole di conforto che non avremmo mai ricevuto da altre persone. Poi le cose cambiarono. il tono dei messaggi si fece più conciso. Nome, più indirizzo di partenza, più indirizzo d'arrivo. Nessuno seppe chi cominciò quel gioco, né se qualcuno lo stesse manovrando. Stavamo giocando a una partita, dentro cui eravamo tutte coinvolte. La prima volta mi capitò quando ero nel bagno della corsia del pronto soccorso dove lavoravo. Magda, più. Pronto soccorso fate bene sorelle, più. Via Tolmezzo 7, quinto piano. Ma io conoscevo quell'indirizzo. Era un cliente a cui davo servizio regolarmente. E anche se non c'erano altre indicazioni, sapevo esattamente cosa dovevo fare. Così presi la spugnetta più grande che avevo e la passai su tutte le superfici sensibili dell'ospedale. Per zelo, la strofinai addirittura nei cestini zeppi di fazzoletti usati dai malati in rianimazione, e poi la sigillai e poi la misi in borsetta. Mi cambiai, aspettai la campanella e corsi fuori, che sembrava andassi al cinema. Non ero mai stata così felice di andare al lavoro successivo come quel giorno di primavera. Prima di salire sul tram, buttai il biglietto in un cestino che qualcuno dei nostri avrebbe ripulito di lì a poco. Tutto era stato pensato. Dopo essere passata dal portiere in livrea, aprì la porta ed entrai in quella casa piena di quadri e statue che provenivano da lontano e di oggetti inutili che mi avevano sempre fatto sentire a disagio. «Buonasera, signora. Ah, eccoti, oggi tu pulire cucina e bagno». Non capivo perché mi parlasse con quella strana lingua senza articoli che sentivo rivolgermi da tutti i signori a cui prestavo servizio, ma oggi non c'era tempo di indugiare in questi pensieri, così cominciai velocemente il mio nuovo lavoro al servizio di una missione invisibile, la missione che tutte noi stavamo compiendo in silenzio, senza sapere bene perché, ma riconoscendone le ragioni fin sotto la pelle sbucciata da anni di prodotti chimici disinfettanti. Io pulivo la casa del CEO di una grandissima azienda privata e le mie colleghe altre centinaia di case di persone che avevano portato questa situazione di merda. In modo invisibile li stavamo condannando a morte, li infettavamo, li ammalavamo, noi docili e silenziose e con il sorriso alla bocca. Spostavamo il virus dalle fogne alle stanze dei bottoni, dalle periferie al centro, dai poveri ai ricchi, scatenando una rivolta che non avremmo mai potuto immaginare senza il superpotere della nostra invisibilità. Sometimes crazy. yeah, baby, I tell you no. Move it down, I can't feel it, oh yeah, yeah. You're wrong and right, you can't figure out, you're so defensive. Day and night like insomnia, oh yeah, yeah, yeah. Quietly chanting, quietly wanting, quietly wishing, please take me home with you tonight. I said, please take me home with you tonight. Please take me home alone with you tonight. I said, please take me home alone with you tonight. In the 80s, both me and my sister got given personal Walkmans, and it was a really big thing, I mean, for both of us, but it was especially a big thing for my sister. She loved house music, and listening to stations in Manchester would make her own house mixtapes from the radio and would listen to them obsessively. When she could make her own cassettes and play them over and over, she would dance endlessly in her bedroom. Dancing, I'd be downstairs watching telly with my mum and dad. I must have been about 13, yeah. And kid you not, the whole house would be shaking. But it's not a big house. And especially banging was the living room door. And my dad would sit there. And he tried to be as patient as he could. But there'd be a point where he'd look over at my mum and he'd be like, Janet, I gotta go up and say something. Mum would look at him and she'd be like, don't you say a word. Love. esikhathini kanti nangenye imini besilele ehlathini ithaba lasibhatha besidlane ekhishini sukele kuseni kwaphela emini uyangikhumbula besilala esikhathini kanti nangenye imini besilele ehlathini ithaba lasibhatha besidlane ekhishini sukele kuseni kwaphela emini Gatsini kumnandi, gatsini ungibambe, gatsini kumnandi, gatsini ungifone, gatsini sikhulume, gatsini ngingumuntu wakho, nobhuti yo, wenza mahala, wenza acha, wenza fushka, wenza tata, aya. Silale stachini, kanti nangenye imini besilele hlathini. Ithaba lasibhatha besidlane ekhishini. Sukele kuseni, kwaphela emini. Uyangikhumbula besilale stachini, kanti nangenye imini besilele hlathini. Ithaba lasibhatha besidlane ekhishini. Sukele kuseni, kwaphela emini. Inkinguthi nasifuna nisikhumbula amalele mbedeni nisikhohlwa uma nisibone ebantwini ebantwini ebantwini iqhizi shaker njengobantwini emini nishaye impama ebusuku ngifuna impambam impambam impambam siyazi vele imnandi imnandi kudlula ipupi ngikhwebe igqubi icici uti uti anke lume babazi boyboy put a line sound a sound Uyangikhumbula besilala esikhathini kanti nangenye imini besilele ehlathini ithaba lasibhatha besidlane ekhishini sukele kuseni kwaphela emini Uyangikhumbula besilala esikhathini kanti nangenye imini besilele ehlathini ithaba lasibhatha besidlane ekhishini sukele kuseni kwaphela emini Sticky hands.

dall'ape di Palancio Frecci. Schiaccia ste merde, fa culo la legge, fa culo la legge, fa culo le guardie, fa culo le guardie. Prendo e scappo con ape di pa, ape di pa, ape di pa, ta ta ta ta. Sparo Rodriguez, ape di pa, scappo, scappo, scappo, su ape di pa. Sparo Rodriguez, scappo, scappo, scappo, scappo, su ape di pa. Sparo Rodriguez. Sparo Rodriguez. Giro giro tondo, giro giro tondo, sulla pe di papà, ho girato il mondo. Giro giro tondo, giro giro tondo, sulla pe di papà, ho girato il mondo. Sulla pe di pa, di papà, di papà, sulla pe di pa, di papà, di papà. Sulla pe di pa, di papà, di papà, sulla pe di pa, di papà, di papà. La pe di papà non è mai vecchia, sulla pe di papà tutta la merce. La pe di papà non è mai vecchia, sulla pe di papà tutta la merce. Socialize around, meet the wrong guy. Room say hi, say why why. Socialize around, meet the wrong guy. Room say hi, say why why. Mango, malala, malala, malala, lama, elama, elala, imala. Get into the fire, to the fire, to the fire. Get into, the fire. Fire, na na na na na na na na na na.